L'apertura. Meccana numero 12 di 8 versetti. Il nome della sura deriva dal versetto 1. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Alam nashrah laka sadrak. Non ti abbiamo forse aperto il petto alla fede? E non ti abbiamo sbarazzato del fardello? Che gravava sulle tue spalle? Non abbiamo innalzato la tua fama? In verità, per ogni difficoltà c'è una facilità. Sì, per ogni difficoltà c'è una facilità. Appena ne hai il tempo, mettiti dunque a ritto. E aspira al tuo Signore.